Oggi incomincia la prima lettera di San Giovanni, l'Apostolo, ed è sempre emozionante prendere in mano questo testo e ascoltare l'esperienza che ha fatto Giovanni. Noi purtroppo siamo troppo abituati alle idee. Il mondo occidentale esisto perché penso, diceva così. E invece il mondo biblico dice: io ho incontrato Dio perché l'ho toccato. Quello che noi abbiamo udito, quello che con i nostri occhi abbiamo veduto, quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, perché per davvero, dice Giovanni, questa esperienza noi l'abbiamo fatta. Ebbene, quello che noi abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi possiate fare la stessa nostra esperienza. Cari cristiani, solamente se noi siamo capaci di rivivere un po' questa esperienza degli apostoli, noi riusciamo a avere fede in Gesù. Io più penso e più dico, senza che ci scandalizziamo, quante volte nei nostri oratori, nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, noi non trasmettiamo la fede, ma trasmettiamo la religione. Un po' di idee, un po' di concetti, tant'è vero che il catechismo normalmente è la lezione di catechismo. Io ho sperimentato, e certamente anche Don Fabio, siamo entrati in seminario grandi, dopo aver fatto lavori, dopo esserci innamorati, dopo esser vissuti bene in una famiglia, la nostra, che ci ha amato. Abbiamo incontrato l'amore di Gesù e abbiamo lasciato questo. Ebbene, tutte le volte che noi lo raccontiamo come è avvenuto, perché è una storia, eh? Non è un'idea, la gente resta stupita. E magari alla fine finisce persino per lodarci e diciamo: voi avete fede. E te l'abbiamo raccontato apposta. Che se abbiamo lasciato indietro una donna della quale ci eravamo innamorati, se abbiamo lasciato indietro un lavoro che ci piaceva, se abbiamo lasciato indietro il nostro papà, la nostra mamma, i nostri fratelli a cui eravamo attaccati, è perché abbiamo fatto l'esperienza di incontrare nella nostra vita Gesù. Un pochino, abbiamo fatto l'esperienza degli apostoli. Immaginate cosa sarà voluto dire per Giovanni, questo che ha scritto queste parole, che nell'ultima cena era lì appoggiato sul petto di Gesù. Quest'ultima cena, la cena dell'addio. Quest'uomo, sapete che mangiavano sdraiati su tappeti, no? Quest'uomo che si lascia andare all'indietro e capita tra le braccia sul petto di Gesù e avrà sentito tum, tum, tum, tum, il cuore di Gesù. Immaginate che esperienza, ma uno non dimentica più. Oppure quando Pietro stava affondando perché si è fidato delle parole di Gesù che camminava sulle acque e gli dice: ma sei davvero te? Sì. Beh, allora fa venire anche me sull'acqua. Vieni. E Pietro cammina per un po' e poi comincia a affondare. Gesù, Gesù. E Gesù gli dà la mano e lo tira. Ma amici, esperienze così non si dimenticano più. Oppure io mentre mi preparavo a questa messa e leggevo queste letture, pensavo anche a Giuseppe. Io amo molto San Giuseppe. Gli ha insegnato, tieni in mano così questa sega per segare questo pezzo di legno o la pialla in questa maniera. No, guarda, devi fare così, è più facile, così ti viene meglio. Giuseppe. Oh caro San Giuseppe, che bello avere questo rapporto con Gesù che avevi tu e la Madonna. Amici, la fantasia è una potente alleata della nostra preghiera. Cosa voleva dire per la Madonna tenere lì al suo seno Gesù e allattarlo? Questo gesto profondissimamente umano e profondissimamente divino. Per questo la Chiesa non ha paura di mostrare Maria a petto scoperto che allatta Gesù. È un gesto umanissimo e divinissimo. Maria che nutre il suo creatore con il suo latte. E per noi che cosa vorrà dire, cari amici? È che il Signore ci conceda di sentire qualche volta sulle nostre spalle la mano di Gesù, come batteva la mano sulla spalla magari di Pietro o di Filippo o di altri apostoli, di dire: dai, dai, siete stanchi. Anch'io sono stanco, ma il Padre nostro celeste è così. Amici, chiediamo al Signore nella preghiera: Signore, facci compiere l'esperienza di incontrarti. E allora noi potremo raccontarlo anche agli altri. Non faremo più le lezioni di catechismo, ma faremo lezioni di vita, lezioni di esperienza. Ciò che noi abbiamo toccato, magari solo nel cuore, solo nella fede, ciò di cui un giorno davanti al tabernacolo ci siamo sentiti il cuore rapito, almeno per un po' di minuti, e abbiamo scoperto com'è bello amare Gesù, e noi lo raccontiamo anche a voi.